La nostra idea è che si smetta appunto di scendere già nel corso dell'anno prossimo, nella seconda metà, grosso modo, partendo diciamo dall'estate, dove avremo diciamo un profilo piatto e poi un piccolo aumento nell'autunno. Questa diciamo la nostra previsione, quindi non è vero diciamo che non c'è un segnale positivo, ecco, una piccola luce in fondo al tunnel l'abbiamo vista, la vediamo ed è confermata da una serie di indicatori che cominciano a emergere qui e là, sia sul fronte internazionale sia su quello domestico. Il ministro dell'economia Grilli dice tra l'altro, insomma, dice non ci sarà un ritardo, insomma, per quanto ci riguarda, per come la vediamo noi, la ripresa ci sarà nel 2013. Questa naturalmente è la visione del governo. Beh, esattamente anche la nostra, e devo dire è solo una questione di decidere quale trimestre prima o dopo. Tra l'altro oggi al seminario del Centro Studi Confindustria c'era il direttore generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni, ha detto che le stime sono analoghe alle nostre, loro danno solo un piccolo più nel terzo trimestre, noi diciamo piatto, però parliamo di decimi di punto, quasi non modificano sostanzialmente il tenore di vita degli italiani. Sul punto nel quale tu hai perfettamente ragione, che più 0,6% del 2014 non è certo un dato che ci consente di fare salti di gioia, è solo la fine diciamo del tunnel, però non c'è un'alba radiosa per l'economia italiana, per questo occorre invece che si vada avanti con le riforme avviate nell'ultimo anno, con diciamo lo stesso ritmo, la stessa decisione, e quindi diciamo con una stabilità politica, una direzione politica che vada in questo senso.